Le impegnate sono tutte attrici, sguazzano nella menzogna come nuotatrici, si fingono chirurghi estetici curando cicatrici. Premio Nobel per il personaggio, ma all'improvviso si è inceppato l'ingranaggio. Mi dai la colpa, modera il linguaggio, il tuo nome su una lapide, il mio prossimo tatuaggio. E riempirò le tombe, se non la pianto di inseguire troie sarà un'ecatombe, dichiarando l'ennesimo decesso, per ogni delusione una lapide all'ombra di un cipresso. Ogni donna ha la sua storia, la tua come tante altre è quella di una troia. Oggi realizzo che non vale la pena di soffrire per il sorriso verticale di un bel fondo schiena. Viviamo in un mondo imperfetto, ma è l'unico che abbiamo. Cerchiamo ciò che sia perfetto, ma dimentichiamo di dare rispetto a ciò che amiamo. Abbiamo un sogno nel cassetto, è così che lo chiamiamo. Cerchiamo un mondo perfetto, ma non lo troviamo. Viviamo un tempo imperfetto e ci dimentichiamo di dare rispetto a ciò che amiamo. Abbiamo un sogno nel cassetto, ma non lo sfruttiamo. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Nella mia vita non c'è posto per un altro sbaglio. Può darsi che uno come me non sappia come comportarsi per paura di scottarsi. Vivo in modo diverso, in un mondo diverso, immerso nelle parole che fanno strani percorsi, per ricordarmi quello che ho perso e liberarmi dalle paure e dai rimorsi, stando sicuro che nessun'altra con le sue promesse mi metterà con le spalle al muro. C'è chi crede ancora nell'amicizia e nell'amore, ma tutto questo mi provoca dolore. E non ci sono cure, non ci sono farmaci, perché ammazza sentimenti tagliando le radici. Essere innamorato uguale essere pazzo, infatti sono un pazzo, può amare a questo prezzo. Viviamo in un mondo imperfetto, ma è l'unico che abbiamo. Cerchiamo ciò che sia perfetto, ma dimentichiamo di dare rispetto a ciò che amiamo. Abbiamo un sogno nel cassetto, è così che lo chiamiamo. Cerchiamo un mondo perfetto, ma non lo troviamo. Viviamo un tempo imperfetto e ci dimentichiamo di dare rispetto a ciò che amiamo. Abbiamo un sogno nel cassetto, ma non lo sfruttiamo. Viviamo in un mondo dove nessuno è perfetto. Io sono nessuno, grazie, datemi rispetto. E non dimenticate ciò che vi circonda, ciò che amate. La famiglia, gli animali, alcune donne vanno rispettate. In mia colpa, dopo aver peccato, non vi discolpa. La vostra sensibilità è cieca come una talpa. Viviamo in un mondo imperfetto, ma è l'unico che abbiamo. Incrociando Eva, ci crediamo Adamo. Nel paradiso degli illusi e degli eroi delusi, andiamo avanti, senza una meta ad occhi chiusi. Decisioni prese senza alcun criterio, vite che si intrecciano senza un discorso serio. In questa storia puntavi alla mia arteria, da quando ti ho incontrato mangio pane e cattiveria. Come tutti ho fatto sbagli, sono di carne ed ossa, con queste mani ho scavato la mia fossa. Ma sbagliare umano, ora voglio risvegliarmi. Alle fighe di legno preferisco masturbarmi. Viviamo in un mondo imperfetto, ma è l'unico che abbiamo. Cerchiamo ciò che sia perfetto, ma dimentichiamo di dare rispetto a ciò che amiamo. Abbiamo un sogno nel cassetto, è così che lo chiamiamo. Cerchiamo un mondo perfetto, ma non lo troviamo. Viviamo un tempo imperfetto e ci dimentichiamo di dare rispetto a ciò che amiamo. Abbiamo un sogno nel cassetto, ma non lo sfruttiamo. Cerchiamo ciò che sia perfetto, ma non lo troviamo. Abbiamo un sogno nel cassetto, ma non lo sfruttiamo. Non diamo rispetto a ciò che amiamo. Viviamo in un mondo imperfetto, è l'unico che abbiamo, è l'unico che abbiamo. Viviamo in un mondo imperfetto, ma è l'unico che abbiamo. Cerchiamo